and bitterness. Buonasera, eccoci finalmente. Qui. Finalmente, sì. Allora, sono le 19:01 e oggi la puntata sarà sulla mascolinità tossica e in particolar modo prenderemo una prospettiva ben precisa. Sì, il focus della puntata. Scusate, avevo il rimbombo. sarà un po', insomma, un upgrade forse, non lo so, un po' diverso della prima puntata che abbiamo dedicato a questo tema, che esatto. Se volete sentire c'è il podcast sui nostri canali. E appunto la prima puntata era più un discorso, non diciamo generale, ma sicuramente un po' più, sì, forse sì, un po' più generico, verteva più sull'origine, no? Della società patriarcale, quindi abbiamo anche un po' cercato di capire insieme in che modo si è costruita questa società patriarcale, quindi abbiamo guardato alle origini e il passaggio da una ipotetica società matriarcale a una patriarcale. E invece la puntata di oggi verte invece sulla figura maschile. Esatto, su quello che è l'uomo oggi, in questo mm-hmm. momento storico, e come si confronta e come vive all'interno di una società patriarcale. Quindi quello che è la mascolinità tossica, che comunque ripeteremo nell'arco della puntata esattamente che cos'è per noi, anche attraverso le parole di alcuni uomini che hanno partecipato a questa puntata, e capiremo insieme un po' anche la gabbia, no? In cui anche gli uomini si trovano. Esatto. Chiaramente in una società patriarcale chiaramente esiste un ordine di genere in cui i generi appunto sono disposti, e sicuramente c'è un genere che prevale sugli altri, dopodiché bisogna anche capire e chiedersi a che prezzo, chiaramente. E quindi nel corso di questa puntata noi capiremo alcune di queste cose. Ci faremo anche molte domande. Mm-hmm. E se volete aiutarci e coinvolgerci anche nei vostri pensieri o confrontarvi anche con noi e condividere, ricordiamo i nostri canali. Potete esatto. scrivere sulla pagina Telegram e noi possiamo leggere o non leggere, comunque a seconda di quello che ci scrivete, i vostri consigli, le vostre perplessità, le vostre domande, tutto quello che volete. Anche se volete rimanere anonimi, scrivetecelo, che non diremo il vostro nome. Come? Io mi dimentico sempre. Chiocciola. Allora, ci suggeriscono chiocciola radio zam trattino basso chat. Qui abbiamo una come a teatro. Esatto. Allora, bene, poi chiaramente non esiste solo Telegram, potete scriverci anche alla pagina Facebook. E i materiali che metteremo a disposizione li potete trovare sul canale Telegram. Bene, allora io direi che possiamo ascoltare un'altra canzone per scaldarci un pochino e poi possiamo anche iniziare. Sì, intanto direi riflettete da casa su che cosa vuol dire essere uomo. Anche così. Se siete donne, anche se siete o altri, donne, di altri sì, generi certo. Pensateci. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. And I'll sing her sweet love song. Oh, I love the time. She will only be, only be. Baldi bozi bat, blibop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody kiss for me, this no matter kiss for me, no matter kiss for me, no matter kiss for me. Rieccoci qui. Allora, mi hanno fatto notare che ho detto chiaramente questa parola tipo troppe volte, un sacco di volte in una frase. Capita. Chiedo perdono, umilmente perdono. Dunque, se avete pensato un po' alla domanda che abbiamo fatto prima di ascoltare la musica, noi ci abbiamo pensato. Gioia? No. Certo. Cos'è una prerogativa maschile? Entriamo nello stereotipo. Vabbè, nello stereotipo un uomo, ovvero una persona che viene cresciuta secondo delle aspettative, delle regole, dei ruoli, deve essere forte, non può mostrarsi debole e mostrare le proprie fragilità. Per esempio, non parla dei propri sentimenti e non gli viene neanche insegnato a parlare dei propri sentimenti, di quello che gli piace, di quello che non gli piace, e lo si serve in un certo senso, perché per esempio se guardiamo alla casa, al luogo in cui quindi si vive, si può vedere come non sia protagonista della cura della casa e né della cura nei confronti delle persone con cui vive, che gli vogliono bene e a cui vuole bene. E, insomma, secondo me da dire ce n'è. Sicuramente queste sono alcune di quelle cose che chiaramente tolgono molto anche al potenziale di una persona che viene cresciuta in questi determinati modi e altri, ed è un po' un peccato. È un po' una limitare la propria libertà, probabilmente. Certo. Ma queste sono parole nostre che abbiamo forse dedotto da degli atteggiamenti, da la percezione della società in cui viviamo, e vorremmo lasciare anche la parola agli uomini. Certo. Quindi io inizierei a fare la prima chiamata. Ok, e quindi chi andremo ad ascoltare, Marti? L'indecorosa Matteo. Wow! In diretta da Torino. Poi che nome, l'indecorosa. Adesso magari ci spiegherà anche perché. Ma buonasera. Buonasera. Ciao Teo. Marti, ciao Gioia. Ciao. C'è anche Giulia in qui. Ah, c'è anche Giulia. Ciao Giulia. Ciao Teo. Sì, io sono più silente oggi. Sono alla regia, grande. Allora, indecorosa, come mai? Come mai indecorosa? Allora, partiamo da questo. Io faccio parte di una collettiva, e sottolineo collettiva perché è nostro... la nostra scelta politica a utilizzare il femminile, e che si chiama proprio Le Indecorose. Pertanto io sono una indecorosa, una rappresentante delle indecorose oggi. E il nome viene dal fatto che noi non vogliamo calarci nel meccanismo del decoro urbano. Poi era un discorso legato a il decreto sul decoro urbano che c'era stato 2 anni fa. E da lì è nato appunto la denominazione indecorose. Ok. E ora che cosa fai? Di che cosa ti occupi? Beh, in questo momento di niente, sono disoccupato, però mi occupo di tante cose fuori dal lavoro. In questo momento sto studiando semplicemente tante belle cose qui a Torino. L'unico modo di essere a Milano è tramite questa chiamata oggi. Ma tra l'altro io non pensavo neanche che ci stessi chiamando da Torino. Eh sì. È una sorpresa. Sì, sono qui. Dunque, noi abbiamo pensato di parlare con te durante questa puntata perché abbiamo avuto modo di lavorare in realtà con le indecorose durante l'anno scorso, per il festival sulla mascolinità tossica di cui avevate parlato già nella scorsa puntata, e c'era un bellissimo laboratorio gestito da voi sulla misoginia nella comunità LGBTQI+. Vuoi raccontarci un po' di questo laboratorio, di come è nato, degli studi che ci sono dietro? Certo. Allora, faccio una premessa. Scusami, quanto c'entra poi con questa puntata sulla mascolinità tossica? Beh, certo. Allora, faccio una premessa, in modo da non essere frainteso. Durante la chiacchierata probabilmente utilizzerò molte volte la parola frocio. Questa è una mia personale riappropriazione politica, che è condivisa da tante altre persone, quindi non mi prendete a male, ma io preferisco utilizzare questa parola invece di altre. Allora, sì, noi a novembre con le indecorose abbiamo partecipato a il festival sulla maschilità e mascolinità tossica, con questo laboratorio che nasce in realtà da un'esperienza personale mia, che poi ho portato all'interno della collettiva. Questa esperienza personale, prettamente accademica, nasceva in realtà da una mia riflessione personale a un certo punto della mia vita, che è abbastanza banale ma come domanda, ma è complessa la risposta in realtà. ovvero com'è possibile che le persone che storicamente e socialmente hanno subito un'oppressione riescano ad opprimere ulteriormente loro e non rendersi conto di questo livello di oppressione. Che cosa intendevo con questo? Nel momento in cui io ho iniziato a interessarmi ai diritti di genere, ai diritti delle donne, al femminismo, mi sono reso conto che spesso veniva tacciato di maschilismo, macismo, sempre l'uomo eterosessuale, e raramente c'era una consapevolezza del fatto che in realtà di misoginia e sessismo non sono gli unici portatori, non sono appunto solo gli uomini eterosessuali. E ho iniziato a guardarmi intorno, ho iniziato a chiedermi: ma invece nella comunità frocia cosa succede? Cioè, anche i froci sono degli autori di misoginia o di sessismo. Quando dico froci intendo, la mia analisi era, verteva sugli uomini froci. E da lì è nato il mio lavoro, che poi è stato portato all'interno della collettiva, e ci abbiamo lavorato insieme, e poi nel laboratorio che abbiamo fatto. E siamo partiti da una cosa molto semplice. Infatti mi ha fatto piacere che voi avete chiesto anche agli ascoltatori questa cosa, di come definiamo, come connotiamo uomo, donna, maschio, femmina, maschile, femminile, tutte queste parole che ci vengono impartite in qualche modo, che fanno parte del nostro vocabolario. Mi è piaciuto molto quello che avete fatto. Ho fatto proprio lo studentello mentre Gioia parlava dell'idea di uomo stereotipata. Mi sono preso degli appunti. E sono contenta. Un uomo è forte, non è fragile, non parla dei propri sentimenti, lo si serve e non si cura né degli spazi attorno a sé né delle altre persone. Questa è un'idea molto, appunto, come avete detto voi, stereotipata di che cos'è un uomo. Il lavoro che noi abbiamo fatto all'interno del laboratorio poi è andato oltre, ovviamente, nel senso che le persone che hanno partecipato hanno dato tante definizioni, partendo dalla propria sfera privata, arrivando poi a delle teorie un po' più complesse ed elaborate, legate al mondo degli studi di genere, degli studi queer. Quello che poi è sorto all'interno del laboratorio e di cui ha parlato tra l'altro Maya nella scorsa puntata sulla mascolinità tossica, è appunto questo limare il binarismo di genere, quindi il dividere il tutto sempre in qualcosa di prettamente maschile o prettamente femminile, non vedendo tutta la fluidità che c'è nel mezzo. E detto questo, senza andare oltre, perché sennò inizio a parlare e non la smetto più, il laboratorio poi si è mosso su una parte un po' più pratica, un po' più pragmatica. Noi abbiamo sviluppato 4 situazioni che sono state prese o da esperienze personali di persone all'interno della collettiva, oppure da articoli di giornali che trattavano argomenti inerenti a queste tematiche. E abbiamo sviluppato 4 situazioni portandole all'interno del laboratorio per vedere come delle dinamiche di sessismo e misoginia si potevano sviluppare all'interno della società, in cui il perpetratore di sessismo e misoginia era sempre un uomo froccio, ma la vittima poteva cambiare in funzione di, direi, due concetti, quello di donna e quello di femmina. Nel senso di femmina da un punto di vista biologico e di donna da un punto di vista culturale, quindi chi viene percepito anche come una femmina, non solo chi è femmina. E quindi le quattro situazioni fondamentalmente vedevano da una parte una situazione in una discoteca in cui un uomo frocio molestava una donna eterosessuale giustificandosi di poter fare questo, quindi toccandole il corpo, facendo una molestia verbale, giustificandosi del fatto che dal momento che lui non era sessualmente attratto da lei, aveva la possibilità di fare questo senza sentirsi in colpa. La seconda situazione vedeva invece una situazione in cui gli uomini froci perpetravano una serie di discorsi stereotipati sulle donne lesbiche. La terza situazione vedeva invece uomini gay che stereotipavano e discriminavano altri uomini gay in funzione del fatto che un uomo gay si sentiva più virile, più maschile, più eteronormato rispetto a un altro uomo gay che invece era più femminio, effeminato, e pertanto veniva tacciato come quello che ha la colpa di non portare la società a comprendere i diritti degli omosessuali, mettiamola così. L'ultima situazione, un po' più complessa, vedeva sempre degli uomini omosessuali che discriminavano un ragazzo transgender, ovvero una persona che si riconosce come maschio. E queste erano le quattro situazioni. Mi fermo un attimo, se avete commenti. Ma, no, sì. Innanzitutto, secondo me è molto interessante perché ci fa entrare in un mondo che, almeno per quanto mi riguarda, è lontano, cioè sì, comunque non ci sono dentro, non totalmente, no, magari, però... Sì. E riflessioni in realtà molto importanti che personalmente ho sentito magari in alcune manifestazioni come il Pride. E perché insomma cadere poi nel tranello in cui ti senti discriminata e vuoi rientrare comunque in carreggiata e lo fai operando quello che in realtà ti lascia fuori dalla carreggiata, no? E operando quindi le stesse azioni, gli stessi pensieri, le stesse dinamiche, è una cosa che chiaramente può avvenire e bisogna stare anche molto attenti. Sulle invece storie che avete trovato, che hai raccontato, molto interessante anche quello della molestia fisica e verbale nei confronti di una donna da parte di una persona omosessuale, di un uomo, e di come non si sentisse in colpa. È una cosa che effettivamente si vede anche in un altro modo, probabilmente, sì. No? Da donna. Certo. Sì, Scusate, volevo aggiungere una cosa su questa prima storia, scusami Gioia. Questa storia è stata presa da un articolo di giornale e la cosa interessante, secondo me, di questa storia, che tra l'altro è una storia che io con i miei occhi ho visto spesso ed è una delle cose che mi ha mosso di più a trattare questo argomento, è che a un certo punto la ragazza che si è sentita molestata verbalmente e fisicamente non ha detto niente, è entrata in una sorta di paralisi perché aveva paura di essere tacciata come omofoba, essendo lei all'interno di uno spazio LGBT friendly. Lei si è dovuta silenziare, zittire per evitare di essere tacciata appunto come omofoba, e quindi lì si è creata una sottospecie di lotta tra che cosa fosse più importante in quel momento, evidentemente nella sua testa, e questa cosa non può avvenire. Lei ha ricevuto una molestia. Altra cosa interessante è che tendenzialmente, per mia esperienza personale, parlando con una serie di persone omosessuali, l'omosessuale maschio a cui racconto questa storia tendenzialmente tende a sminuirla, e tendendola a sminuire, io credo ci sia una sorta di fragilità di non voler prendere la responsabilità di qualcosa che fa parte del nostro sistema. Io so che dopo ci sarà un audio di Gasparrini, non so se posso fare spoiler, certo. L'ho già fatto, e lui parla molto del concetto di responsabilità e colpa, sono due cose ben distinte, cioè tu non ti devi sentire personalmente in colpa di qualcosa, però sei responsabile in quanto sei in un sistema che ti ha privilegiato, e questo va preso in considerazione. Certo, anche perché penso anche che... cioè, sembri che se uno è gay o comunque non è eterosessuale, sembra automaticamente che allora tot cose questa persona non le agisce sulle altre. Cioè, che le violenze siano solamente, unicamente prerogativa dell'uomo eterosessuale, cosa che invece chiaramente non è. Però, appunto, secondo me è anche interessante questo aspetto, perché ti fa vedere la violenza da un'altra prospettiva. Certo. E ricollegandomi alla domanda di Martina all'inizio, come si ricollega tutto ciò all'argomento di oggi, mascolinità tossica, maschilità? Beh, ovviamente tutto è partito da che cosa intendessimo noi con maschilità e mascolinità tossica. Tutta la mia riflessione personale, poi portata all'interno del collettivo, verteva su quello. Le caratteristiche che Gioia ha volutamente stereotipato su un uomo sono quelle che poi io nella mia personale esperienza ho dovuto affrontare, perché o io non ci rientravo in molte di queste caratteristiche e questa cosa mi è stata fatta pesare a volte, mentre per altre mi sono reso conto di avere molto su cui lavorare, perché essendo uomo ero stato comunque educato ad avere un certo tipo di atteggiamento verso tutta una serie di appunto ruoli, regole ed aspettative. Noi froci non siamo esclusi da un discorso di mascolinità tossica, anzi direi che guardando anche ai social media, tutto il mondo multimediale, si sta anche sviluppando un'idea di persona omosessuale che non sembra omosessuale, come se questa cosa sia una caratteristica positiva. Quindi sviluppare un'immagine appunto di uomo eteronormato che è forte, che non dimostra femminilità da nessun poro e che si veste in maniera estremamente normata e deve avere un corpo che dimostra la propria forza. Questa cosa è un qualcosa che sto notando intorno a me ultimamente. Hai detto qualcosa di non femminile, su una cosa del genere. Comunque su questo io vorrei sottolineare il fatto che maschile è disuguale, diverso, il contrario di femminile. Sì, cioè passa maschile, questa contraddizione. Non è femminile. Mm-mm. Femminile non è maschile. Se anche si guarda su alcuni, perché tutti non li ho guardati, però su alcuni vocabolari ed alcune enciclopedie, la definizione di uomo è un essere umano che non è femmina, e la definizione di femmina è l'esatto opposto. Quindi non c'è una vera definizione. Anche questo forse ci rende più libere e più liberi, ma è molto particolare il fatto che uno sia la negazione totale dell'altro, e quindi già si viaggia con il linguaggio su un binarismo di genere che è devastante, ma proprio all'origine, no? Cioè sì, alla radice, quando ti definisci, nel definirti, negando, esatto, tutta l'altra parte. In più, se posso fare questa, se posso continuare questa polemica sul linguaggio, alcuni esempi che ci sono sotto, Gioia lo sa già, perché gliel'ho già detto, sono degli enormi stereotipi di genere. Enormi, cioè sì, uomo è uno degli esempi che fa l'enciclopedia. Certo. Okay. Certo. No, tra l'altro volevo anche dire è che... È una femminuccia, se è un maschiaccio, ce ne sono innumerevoli, e tra l'altro ce ne sono innumerevoli in tutte le lingue. Io vi do questa pillola che ho scoperto un giorno fa, orribile. Io studio un po' cinese, l'altro giorno ho scoperto che il carattere cinese di schiavo ha all'interno un pittogramma, che è una parte del carattere, di donna. Cioè, all'interno dell'idea di schiavo in Cina c'è la donna. È una cosa che mi ha lasciato un giorno intero a riflettere, per dire. Cioè, è una cosa che viene riproposta in tutte le lingue, in diversi modi. Okay. Mi ha scioccato? No, un po'... Beh, no, in realtà... Beh, tipo, se ne trovano... Un po' sì, però è molto interessante. Sì. E, se pensi a tipo vir, uomo, virile, aspetta, com'è che era? Violenza, poi la radice della parola è la stessa. E c'era anche questo esempio bellissimo su mater e pater, che adesso ci penso e lo dico, ve lo giuro. Queste sì sono le difficoltà della diretta. No, comunque sì, a me preme anche ribadire che, cioè, quanto di tutto questo sia anche una questione di uomini, per quanto riguarda ciò che poi un uomo vive. Mi preme sempre ricordare, come anche hai detto tu, che comunque anche nelle relazioni non eterosessuali, per esempio quindi tra uomini, anche lì succedono tutta una serie di violenze, da quelle psicologiche a quelle verbali, certo. Che, di cui non si sente molto parlare, penso, e no. Credo che sia sempre allo stesso tempo importante ricordarle e parlarne e fare in modo che anche quegli uomini che in queste relazioni vivono situazioni e contesti di violenza alzino la voce e a loro modo denuncino queste relazioni malsane che appunto hanno origine da tutto quello che abbiamo già detto. Ok, le parole erano matrimonio e patrimonio, scusate. Mi è venuto in mente. No, mi aveva fatto riflettere comunque, cioè matrimonio, sì, l'unione, sì. E patrimonio il bene economico, no? Quindi la cosa da gestire, sì. Ok. I concetti di dominio e potere ritornano anche lì, ma certo, ovviamente. Ma poi, cioè, banalmente anche il matrimonio, e con questo chiudiamo, mi fanno cenno dalla regia, mi dispiace. Ah, tipo basta, state parlando troppo. Esatto. No, mi una cosa che mi ha fatto anche riflettere, cioè su un esame che avevo dato sul genere, è anche proprio il fatto che il matrimonio sia uno strumento, che vabbè, ovviamente è scontato molto probabilmente, però chiaramente è una questione di proprietà. Cioè l'uomo col matrimonio cerca di normalizzare la donna che natura è qualcosa che non si può domare, però con il matrimonio si doma. Cioè la storia del matrimonio è questa? Sì, certo. Cioè è una lettura del matrimonio, sempre che si riferisce alla puntata anche precedente del passaggio da una società matriarcale a patriarcale. E niente, adesso certo. Martina mi ha fatto tornare in mente. Va bene. Teo. Vabbè, ma fatemi fare due saluti di quelle cose lì che si fanno quando stai in televisione. Dai, sfrutta la diretta. Allora, saluto le due persone che mi hanno scritto in questo momento, di cui una sentirete dopo, Tecla e Davide. Grande. E vi saluto, spero di poter tornare a Milano presto, chissà. Dai. Anche noi lo speriamo. Magari qui in radio. Magari qui in radio, sì. Queer radio. Dai. Queer, grazie queer. Mille. Ciao Teo, un bacio. Ciao. In simbiosi abbiamo detto un bacio. Certo. Bellissimo. Adesso dovremmo anche baciarci, secondo me. Però vabbè. Ma sì, dai. Mentre ascoltiamo questa canzone. Vai. Dick in the air. Let me see you put your dick in the air. Dick in the air. Let me see you put your dick in the air. hands in the air and shake our asses like we don't care. We've been shaking our tits for years, so let's switch positions. No inhibitions, fear cracking your nuts, pistachio. Shave the handlebar, pistachio. Curly on top, Ralph Macchio. Went down, got milk, mustache, yeah. Dick in the air, let me see you put your dick in the air, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air, dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air, dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air, dick. I know it's not subtle, I know you think I'm trouble, but I see you standing there with a moose knuckle. Although it makes me chuckle, loosen your buckle. On the double, face down, dick up, that's my command. Take it like a real woman, not Ayn Rand. Trickle down, drop, give me 8 inches, pop, stop. You're gone numb, you need a lift. Use a thumb, or take a fist. Roll with it, Sisyphus. No hissy fit, or sissy bits. A gin fizz, for every his. Now get to biz, who's Jesus is? Balls and one dick. Balls, balls, dick, dick, balls and dick. Balls and dick. Two balls and one dick. Balls, balls, dick, dick, balls and dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, balls and dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, balls and dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, balls and dick. Dick, dick, dick. Dick, dick, dick. Dick, dick, dick. Dick, dick, dick. Ma do questa canzone. Bella! No, è molto molto bella, io ho un po' ballato sulla sedia. Comunque la devo annunciare perché è meravigliosa. Si intitola Dick in the Air di Peaches, scritto Peaches con CH. Così la cercate e la trovate. Grazie le DJ, come sempre. Ok, allora, continuando la scaletta. Noi adesso ascolteremo un audio che ci ha inviato Lorenzo Gasparini, che un po' non ha bisogno di presentazioni, un po' lui stesso si presenterà nell'audio. Purtroppo non è riuscito a essere con noi in diretta e quindi comunque ci ha dato il suo contributo per questa puntata e lo possiamo ascoltare. Niente, qua stiamo un attimo sempre tra della serie le problematiche della diretta. Stiamo cercando la chat in cui ci ha inviato l'audio e ci parlerà in generale del... Mi chiamo Lorenzo Gasparini, sono un filosofo femminista e chiacchieriamo un po' di che cos'è la mascolinità tossica. Di per sé non è un concetto particolarmente difficile, purtroppo è difficile parlarne. Perché dietro queste due parole, mascolinità tossica, si nascondono delle cose che non sono difficili da comprendere, ma che richiedono l'uso del nostro linguaggio in un modo che non siamo abituati molto spesso a fare. Per esempio, succede molto spesso che tanti uomini al solo pronunciare questa espressione, mascolinità tossica, si sentano in colpa, si sentano giudicati, si sentano messi all'angolo. Questo accade perché, prima ancora che arrivi una corretta definizione di questo fenomeno sociale, è già arrivato il pregiudizio che lo anticipa, e cioè il fatto che dietro questa definizione ci sia una sorta di punizione per tutto il genere maschile e le cose brutte che fa e che combina. Ecco, non è esattamente così, e purtroppo ci sono dei buonissimi motivi per cui ancora molti uomini credono a questo pregiudizio, e li vedremo più avanti. Mascolinità tossica significa che io, più o meno consciamente, credo ad una definizione della mia identità di genere, maschile, cisgender, eterosessuale, bianca, occidentale, che non ho mai messo in questione davvero, e cui comportamenti si diffondono come un agente tossico, diciamo così, in natura, anche senza la consapevolezza di chi li agisce. Semplicemente si diffonde e inquina l'ambiente. La metafora serve a spiegare che cosa? Che molto spesso, dietro tanti comportamenti che si pensano essere naturalmente, normalmente maschili, si celano invece degli strumenti di potere che fanno male, fanno violenza a tutti gli altri e a tutte le altre persone di altri generi. E se io non sono capace di riconoscere queste forme di violenza, cioè non sono capace di riconoscere la tossicità di questo modo di essere maschio, non posso riconoscere queste forme di violenza e non posso neanche riconoscere quanto queste forme di violenza siano inserite in un sistema che danneggia anche me. Cioè che per questa idea di mascolinità mi toglie anche qualche cosa. Mi dà, come dire, ha un prezzo da pagare e che io effettivamente pago per avere a disposizione questo potere che uso nei confronti degli altri generi. La definizione è questa, ma la cosa più difficile è accettarla su di sé, cioè accettare che da uomini etero, bianchi, occidentali, siamo fortemente condizionati nella nostra identità di genere da scelte che noi in realtà non abbiamo mai fatto consciamente, ma che stanno nella cultura nella quale cresciamo, nella cultura alla quale apparteniamo, e che ci vengono trasmesse come se fossero ovvie, naturali, normali, appunto, non da mettere in discussione, perché o sono così, o accetti quelle, oppure semplicemente non sei un uomo, non sei un maschio, non sei quello che apparentemente sembri essere. Questa definizione quindi contiene anche, come dire, delle costrizioni molto forti. Per esempio, il fatto che io nasca in un ambiente estremamente competitivo. Sono sempre in competizione con altri uomini per tutta la durata della mia vita. O perché sono introdotto in un ambiente nel quale sono classificato con gli altri, insieme agli altri. E visto che io sono un uomo, devo dimostrare certe qualità, certe attitudini al comando, alla forza, al pensiero logico, alla capacità di primeggiare in un qualche settore, uno qualunque, uno di quelli che mi capita, lo sport, un hobby, lo studio, uno qualunque, un lavoro, avere dei soldi, avere dei beni, delle proprietà, insomma devo scegliere un campo e in quello cercare di primeggiare, di essere bravo, di essere il più bravo, perché quella è la mia caratteristica. E al contrario non mi devo occupare di tutta un'altra sfera di cose, di tutto un altro insieme di fenomeni sociali che apparterrebbero ad altri generi, principalmente a quello femminile, alle cose delle donne. Perché da quando sono ragazzino, questo ce lo ricordiamo molto bene, noi tutti uomini, ci è stato spiegato che ci sono le cose da maschio e le cose da femmina. E poi ci sono le cose da uomo e le cose da donna. E queste cose sono giocattoli all'inizio, e poi sono parole, e poi sono discorsi, e poi sono lavori, e poi sono attitudini, e poi sono cose che si fanno in pubblico, o cose che si fanno nelle nostre relazioni private, cose da uomini e cose da donne. E se io queste cose da uomini non le so fare, non le so praticare, non le so mettere in azione nella maniera giusta, sono poco uomo, sono meno uomo di altri. Tutte queste classificazioni fanno parte della nostra cultura, di quella idea tradizionale di maschio, idea tradizionale anche di femmina, che ci portiamo appresso. Maschio e femmina che poi diventano uomo e donna, perché quindi anche al di là dei nostri attributi con i quali nasciamo, ci vengono imposte come modello di sviluppo della nostra personalità. E il fatto che siano modelli culturali a disposizione complica parecchio le cose, perché significa che questi aspetti li possiamo trovare anche in chi non è del nostro genere. Sessista lo può essere benissimo anche una donna, e beh certo, se usa quello stesso strumento discriminatorio che usano gli uomini, e perché no? Il problema non sta lì. In questa tossicità c'è anche appunto il diffondere un certo modello di comportamento e quindi il, come dire, il renderlo disponibile anche a chi non è di questo genere. Bene, facciamo... Abbiamo deciso di dividere... No, aspetta Marti, che ti abbiamo prima silenziata. Ok, abbiamo deciso di dividere l'intervento di Lorenzo in due parti. E vi facciamo ascoltare una canzone intanto... Pensate alle sue parole, poi possiamo commentarle insieme. Se avete anche degli spunti di riflessione anche voi, scriveteci su Telegram. Yeah, yeah, yeah. In my world, and although most men are hoes, he flows on the down low, cause I never heard about him with another girl, but I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect, I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past, I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy, I think I wanna have your baby. Forget. Yeah. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a dapper dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yes, my man says he loves me, never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that math. It's but every time they tried, I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation over mine, which means a lot to me, cause good men are hard to find. My man gives real love, and that's why I call him killer. He's not a wham bam, thank you ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. And he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can. Secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespectful, cause his mama taught him that. I got a good man. Yeah. Rieccoci qui e finiamo di ascoltare il contributo di Lorenzo. Quindi la mascolinità tossica è quella che per esempio si esprime in un modo di dire molto comune, che è per esempio donna con le palle. Quando vogliamo apprezzare in una donna qualità che noi normalmente e genericamente attribuiamo agli uomini, letteralmente le appiccichiamo quei genitali che di suo non ha. Più evidente forma di tossicità non mi viene in mente. È talmente tossica questa mascolinità che letteralmente si attacca al corpo diverso da quello maschile e gli attacca quegli attributi che servono a farlo diventare maschile, perché esprime delle qualità tipicamente maschili, e allora se le esprime ce l'ha, quelle cose lì che ti fanno uomo, quell'apparato là che tu hai qua davanti, ce l'ha anche lei da qualche parte, glielo appiccichiamo. Quello che è più difficile da scorgere in questa critica che dovremmo fare alla nostra in quanto uomini idea di mascolinità, sta il comprendere quello che ci perdiamo nell'aderire a questo modello, modello che apparentemente sembra non avere alternative. Due esempi su tutti. Ci perdiamo innanzitutto, e fin da piccoli, fin da subito, la capacità di parlare del nostro mondo interiore, perché ci viene sempre raccontato, fin da quando siamo piccoli, che gli uomini, i maschi, non piangono, non parlano della loro interiorità, non si mostrano teneri, dolci, sensibili, non si affezionano, non fanno gesti di affezione espliciti, si stringono virilmente la mano, si danno la pacca sulla spalla, ma non si abbracciano, ma non si baciano, ma non si congratulano affettuosamente, non spendono del tempo parlando dei loro problemi interiori. Queste sono tutte cose che fanno le donne, che non fanno gli uomini. E questo significa che si cresce, si diventa grandi, letteralmente incapaci di parlare della propria interiorità. E questa incapacità diventa un grosso problema in quei momenti molto importanti della tua vita, quando dovresti proprio invece fare quello, parlare della tua interiorità. Quando incontri qualcuno col quale vuoi avere una relazione importante, e lì dovresti parlare di te stesso e non ci riesci, perché non lo sai fare, non l'hai mai fatto prima, non hai letteralmente le parole per parlare dei tuoi sentimenti. Quando vorresti fare del buon sesso con qualcuno, con qualcuna, vorresti spiegare che cosa ti piacerebbe fare, che cosa ti piacerebbe ricevere, e non sei capace di farlo, perché non l'hai mai fatto. Oppure hai a disposizione solamente tutto un vocabolario fatto di immagini volgari, di immagini sprezzanti, di immagini svalutanti il corpo dell'altra, che a quel punto giustamente magari si fa anche un po' a rodere e ti risponde male. Ma queste cose non vengono da sole, si devono far crescere, si devono far coltivare, bisognava cominciare da piccoli ad avere questa capacità, ad allenare questo linguaggio. Poi scopriamo quando arriviamo grandi che non ce l'abbiamo più, perché abbiamo creduto che non facesse parte di noi stessi, che non era una cosa da uomini. E purtroppo in questo modo non siamo neanche capaci di liberarci facilmente da questa gabbia, da questo legame, perché di nuovo non sappiamo come si fa. Cioè non abbiamo intravisto un'alternativa a questo modo di essere maschi. E quindi ci è difficile farlo, perché letteralmente, che cosa facciamo? Che cosa diventiamo? In che cosa ci trasformiamo se cambiamo queste nostre abitudini maschili? Un'altra grossa gabbia nella quale ci lega questa mascolinità tossica tradizionale è quel comportamento sociale che va sotto il nome di cameratismo. Quel fatto per cui, prendo ad esempio un ultimo fatto di cronaca di cui si è parlato a lungo, in un gruppo Telegram, in un gruppo comunque nel quale si è legati attraverso mezzi di comunicazione, ci si scambiano foto di ragazze prese e diffuse senza il loro consenso, e su queste foto si fanno i discorsi più beceri, volgari, sessisti che sia possibile, e tutti ne ridono. E queste cose si diffondono con l'idea di riderne insieme. Cosa c'è dietro questa risata comune? Risata quando va bene, ovviamente. Cosa c'è dietro questa risata comune? C'è un desiderio di riconoscimento reciproco, di appartenenza reciproca a quella stessa idea di mascolinità. Se tu ridi, se ti faccio ridere, se quando ti mostro questa immagine tu ne convieni con me, che questa è una che o la bombo o la passo, ma generalmente la bombo, come si dice oggi, allora sei del mio stesso gruppo, Allora apparteniamo allo stesso genere, mi hai dimostrato di essere maschio, di essere uomo come me. E perché molti uomini lo fanno e appartengono a questi gruppi, anche se effettivamente non sentirebbero questo bisogno, non avvertirebbero questo desiderio, forse non si confà a ciò che davvero vogliono fare. Lo fanno lo stesso di nuovo perché non hanno alternative, perché gli è sempre stato raccontato che quella è l'unica mascolinità possibile, che sono le cose da uomini, che sono le cose che fanno gli uomini, ma non c'è niente di male, ma è solo per fare una risata, e giù tutte altre giustificazioni a comportamenti violenti e sessisti, che sono la base poi di violenze e di reati molto più gravi. Già questi sono molto gravi, ma non dobbiamo nasconderci che sono sulla stessa strada, sono dello stesso gruppo, fanno parte dello stesso iceberg, no? Di cui noi vediamo solamente la piccola parte che spunta dal mare, ma sotto c'è l'enorme massa che tiene a galla quello che vediamo. Questo cameratismo è poi alla base di tutta un'altra serie di comportamenti che gli uomini hanno nella loro sfera privata, che molto spesso contraddice ciò che loro fanno nella sfera pubblica. Tipicamente io posso essere nella sfera, nella parte pubblica della mia vita, uno che si batte per i diritti, uno che si batte per le minoranze, uno che crede in un'economia più equa, più solidale. Poi però nel privato pretendo che la mia compagna si comporti, aperte virgolette, da donna, chiuse virgolette, che stia buona agli alzo posto, che non intralci le mie idee, per esempio politiche, e il mio modo di fare politica, che non... E questo che cos'è? Questo è cameratismo, cioè riportare una netta separazione tra privato e pubblico che mi permette di comportarmi pubblicamente in un certo modo, privatamente come mi pare a me, seguendo cioè tutto il contrario di ciò che vado sostenendo pubblicamente. Questa è un'altra libertà che la mascolinità tossica si autoconcede per svolgere la sua vita. E facendo in questo modo, aderendo a questo modello di mascolinità tossica, noi non ci accorgiamo neanche di quando i ruoli di genere, perché di questo stiamo parlando, di ruoli di genere, non dell'essere maschio, dell'essere uomo, dell'essere... non c'è nessuna essenza in questo, sono ruoli che ci troviamo a svolgere, quando questi ruoli ci costringono in un linguaggio molto violento e non lo sappiamo neanche riconoscere. Pensate a quanto è diffusa ancora, giornali, media generalisti, quella parola che vorrebbe essere, non so, quasi un complimento, una cosa affettuosa, che si rivolge agli uomini che hanno, che svolgono anche occasionalmente delle mansioni di cura nei confronti della loro famiglia, Il mammo. Cosa c'è dietro la parola mammo? C'è il fatto che il lavoro di cura e di amore, per esempio per i propri figli, è talmente poco considerato maschile che io rifiuto l'idea che ciò faccia parte dell'immagine di un padre, che normalmente dovrebbe prendersi cura dei propri figli, e prendersi cura può anche voler dire lavarli, pulirli, dargli da mangiare. Siamo talmente, come dire, refrattari a questa idea, che esattamente come abbiamo attaccato le palle alla donna per dirgli quanto è maschile in queste sue affermazioni, distorciamo la parola mamma per appiccicarla all'uomo quando si confà a qualcosa che noi riteniamo essere essenzialmente femminile. Allora, che la riproduzione, nel senso del parto, sia esclusivamente femminile, beh, qua non ci piove, non è il caso di discuterne, ma che io debba fingere, debba assumere una maschera materna per fare quello che tutto sommato posso fare benissimo da padre, appunto, accudire i miei figli, amarli, dargli da mangiare, lavarli, tutta questa serie di comportamenti che delle convenzioni sociali hanno deciso che sono da donna, ma non sono da donna, sono da genitore che ama, e quindi posso farli benissimo in quanto padre, è quello stesso sessismo, dicevamo prima, che sta dietro all'attaccare l'attributo maschile alle donne quando sono assertive, quando decidono, quando sono competenti e piene di grinta nel loro lavoro. Se non ci accorgiamo di queste distorsioni che continuamente facciamo all'identità nostra e all'identità di genere delle persone che abbiamo intorno, non riusciamo a uscire da questo ruolo tossico di contaminazione della vita altrui che ci portiamo appresso in questa società sessista nella quale siamo nati da sempre. Il primo passo è accorgersene e cominciare a cambiare il proprio linguaggio, i propri gesti nelle relazioni che abbiamo intorno a noi. Così si combatte anche una lotta politica affinché la mascolinità sia sempre meno tossica. Grazie. Ci vuole un applauso. Sì. Stand innovation. Caspita. No, ha detto tantissime cose, una più bella dell'altra in un certo senso, chiaramente molto anche molto chiaro, e non so, a me c'è un po' un pieno di informazioni nel cervello, non so voi che ci ascoltate, però cavolo, scriveteci, e perché penso che proprio dopo questo contributo di Lorenzo Gasparini abbiate anche un sacco di pensieri, di questioni che è giusto anche liberarsene per condividerle e collettivizzarle. Quindi scriveteci al canale, sul canale Telegram, che adesso la regia Giulia mi potrà ricordare. Chiocciola. Radio Zam. Radio Zam. Trattino basso. Trattino basso. Chat. Grazie regia Giulia, e intanto ringraziamo anche Lorenzo, e adesso possiamo fare due riflessioni anche su questo. Certo, ma secondo me è interessante capire cosa ci si perde, cioè tutto il discorso è legato a questa, insomma, credenza di essere dalla parte, non so, forte, giusta anche magari, e potente, che quindi ha potere su un'altra parte che invece non ce l'ha, è sicuramente così, ma è una felicità probabilmente fittizia. Mm-mm. Quindi reale, ma che non prevede realmente una libertà. Sì, tra l'altro mi viene anche da pensare proprio come quello che lui ci ha raccontato sia una cosa di cui noi, con cui noi facciamo i conti tutti i giorni, tutte le volte che ci relazioniamo con altre persone. Avere un padre che non è in grado di esprimere i propri sentimenti di fronte a un litigio, e quindi si arrabbia, si incazza, se possiamo anche usare le parole un po' più forti, o che magari a un certo punto diventa anche violento, quindi si, oppure un fratello che anche lui che non riesce a comunicare il disagio che prova e non riesce neanche a riconoscere il disagio che invece prova una sorella o un'amica o una fidanzata o anche magari un fidanzato. E questa incapacità, con questa incapacità noi ci relazioniamo tutte le volte, e secondo me, cavolo, fa male specialmente in realtà a chi non è in grado di viverle, no? E di esprimerle, di comunicarle, secondo me. Certo. Cioè chiaramente arriva, perché poi è condivisa, cioè il malessere è condiviso, chiaramente. La cosa interessante di questa puntata, secondo me, è che vuole parlare direttamente agli uomini, cioè... almeno ci prova. Sì, sì. E per questo abbiamo anche voluto ricercare dei contributi maschili, perché qua, cioè, quando abbiamo pensato alla puntata, il ragionamento è stato ok, per interagire con gli uomini o chi si sente tale, insomma, bisogna parlare anche delle problematiche che probabilmente ci sono nel mondo maschile, no? Cioè non quindi magari fare tutto quel ragionamento sulla colpa, che certo, non era interessante e forse neanche funzionale, ma come ha detto bene Teo prima, sulla responsabilità del genere maschile che effettivamente c'è, e su quello che loro stessi si stanno perdendo in questo momento, su come quindi andarselo a riprendere e su come vivere in un mondo libero. Questo secondo me lo insegna molto bene il femminismo, ed è per questo che essere femministi ed essere femministe non è una cosa prettamente da donna. Cioè il femminismo parla alle persone, a tutte e tutti. Esatto, e non soltanto alle donne, ed è una, un modo, una strategia, una teoria, non so, una pratica di vita che dovrebbe far parte anche della vita degli uomini. Sicuramente, sì. E poi è sempre difficile sicuramente anche confrontarsi con la parte maschile su queste tematiche. Sicuramente questo non vuol dire che bisogna mollare. Penso che sicuramente qualora un uomo ci provi, abbia il desiderio di acquisire un linguaggio, un immaginario nuovo, diverso, che lo fa star bene, come appunto dice Marti, tutto ciò che il femminismo può dare, è giusto anche allo stesso tempo sostenere queste persone e non lasciare nessuno indietro. Poi è ovvio che poi vabbè, è un discorso molto difficile sicuramente da fare in radio, però di quanto appunto parlava Teo prima, no? E anche adesso Lorenzo, cioè sicuramente anche le donne, certo, agiscono sessismo, e quindi nel momento in cui magari ci sia un compagno, un amico, un fratello, un padre che in quel momento sta provando anche ad esprimere qualcosa che non gli appartiene, non so come dire, magari anche lì c'è un altro tipo di responsabilità che fa sì che quei momenti vengano fermati e queste persone zittite. Oppure da donna può capitare che quando si è piccole e si capisce che c'è una parte dominante e vuoi quindi arrivare anche tu alla parte dominante, perché è quella che viene presa più in considerazione rispetto alla tua, assumi degli atteggiamenti che fanno parte di quella parte dominante e quindi li crei poi in te stessa. Li fai tuoi. Li fai tuoi, certo. E li rimetti poi nel mondo in un modo assolutamente negativo. Certo. E poi a me viene anche in mente un'altra riflessione, o meglio, da queste parole a me, queste parole mi hanno fatto anche ricordare di un libro che ho letto che si chiama Dalla parte delle bambine, che è un libro degli anni 70, scritto, non me lo ricordo mai, me lo sono cercata, eccolo qui, scritto da Elena Giannini Belotti. Ed è un libro, secondo me, meraviglioso, anche se un po' datato, però sicuramente ancora molto attuale e su cui si può riflettere ancora molto. E questo libro fa un po' non una genesi, però sicuramente racconta la vita, sì, dalla nascita, cioè la distinzione, cioè di come un bambino, sin dalla nascita, un bambino e una bambina vengono trattati. E quindi che cosa gli si insegna, che cosa gli si fa fare, e questo anzi non solo alla nascita ma anche già da prima della nascita, ovvero quando la creatura è ancora nel grembo materno. Per esempio, se si sa già se la creatura sarà un maschio o una femmina, già i genitori si impostano non solo la casa ma anche tutta la loro vita futura sulla base di questo test, cioè se è maschio o femmina. Quindi se io so che nel mio grembo c'è un maschio, io per esempio la cameretta la dipingerò di azzurro. E anche qui ci sono quindi una serie di stereotipi che già vengono messi in atto ancora prima che il bambino o la bambina nasca. Poi figuriamoci quando nascono, ed è proprio questo anche quello di cui parlava Lorenzo. Ed è pazzesco, è pazzesco. Vi ricordiamo, se volete iniziare a leggere qualche libro di Lorenzo Gasparini, ne ha scritti almeno tre, cioè ci sarà il quarto a breve. Però quello che per Lorenzo iniziare, esatto, sì, anche presentato qui, sì, da noi a ZAM, è Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni, di 7-9 edizioni. Quindi noi vi consigliamo queste letture, nella speranza poi di risentire Lorenzo magari in diretta. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Abbiamo ascoltato, oddio, è un titolo difficile, no, Six, ah no, è l'altro, grazie Giulia della regia. Allora, abbiamo ascoltato Give Him a Great Big Kiss, dei The Shangri-Las. Io soffro ogni volta che si leggono le canzoni. Davvero? Terribile, qualcuno ci faccia un corso... d'inglese. Parla per te, per scusami. Perlomeno un corso per leggere i titoli delle canzoni. O se no mettiamo solo canzoni in tedesco. Così tu le sai leggere tutte. Va bene, si può fare. Allora, siamo pronte? Sì, siamo pronte. Chiamiamo la prossima... personaggia. La conoscete già tutti e tutte. È con noi anche stasera. Un po' di suspense. Un po' di suspense. Uè, uè, uè. Tecla! Eccola. Ciao, bella Tecla. Zie! Ciao! Ma come quanti stai? Siete oggi? Oggi sì. Oggi è una giornata speciale. Non brave si sa comunque, perché, ma è speciale. Bravissime. Siete, a parte l'inglese, ma siete bravissime. Vabbè, ma cioè proprio io non lo so perché, cioè non voglio fare la sborona, non è che però, cioè io l'inglese non lo sappia per niente, però ho sempre difficoltà a leggere i titoli delle canzoni in radio. Rimani modesta. No, è vero, cioè oggettivamente non è che io non lo so, poi non sono un super genio anglofono, anglofona, però non so leggere i testi delle canzoni. Tutto qui. Va bene, nelle prossime riunioni impareremo anche a leggere le canzoni, faremo un corso di ripetizione in inglese. Facciamolo, facciamolo, per favore. Comunque, ragazze, volevo dirvi che, allora, finora sono stati fatti degli interventi, devo dire, spettacolari proprio, esageriamo. E grazie a Matteo, che tra l'altro io non avevo capito che era quel Matteo. Comunque grazie. E Gasparini anche mi ha lasciato, devo dire, senza parole. Sì. E per quanto riguarda il mio contributo, che con tanta fatica finalmente sono riuscita a trovare, E prima di leggervi questa filastrocca molto simpatica, volevo fare una piccola premessa, proprio perché ho avuto difficoltà a trovare questa poesia e questo mi dà... Dimmi. Scusami, poi continui con la premessa. Abbiamo l'audio, quindi la introduci e abbiamo poi il tuo audio già qua in radio. Già imposta. Ah, perfetto. Yes. Allora la introduco, perfetto. Vai. E dicevo appunto che avendo fatto un sacco di difficoltà nel trovare questa filastrocca, mi dà da pensare che non ci sono uomini che parlano del proprio pene in poesia. E questo, secondo me, questo poi è un mio parere, però anche rispetto a quello che ha detto Gasparini, perché spesso questa cosa qui potrebbe influire sulla virilità dell'uomo, cioè, e quindi non, l'uomo che non riesce a esprimere i propri sentimenti e che non parla dei propri attributi, perché potrebbe essere giudicato, no? Sì, certo. E quindi questa è una grande difficoltà e io ho veramente fatto un sacco di ricerche in questi giorni per trovare qualcosa di poetico e artistico e non c'è quasi niente, mentre per quanto riguarda le donne abbiamo più coraggio probabilmente, no? Anche più e parole. E quindi questa cosa... O abbiamo più bisogno di esprimerci. Ma probabilmente sì, ma credo che anche gli uomini sotto questo aspetto. Ma magari alcuni sono ancora in questa gabbia. Esatto, poi anche perché parlare del proprio pene in genere c'è anche un po' di timidezza, no? Nell'uomo. E quindi questo per presentarvi un po' questa poesia che viene da un blog, tra l'altro, che ho trovato. L'autore è Giuseppe Bellanca e in questo blog, tra l'altro, alla fine della poesia ci sono gli uomini che esprimono un po' dei pareri, no? Che ringraziano questo autore di aver scritto questa poesia proprio dicendo queste cose, no? Che grazie di aver parlato il pene in questo modo, di averlo, insomma, è un po' simpatica come cosa. E niente, io direi che adesso possiamo sentire questa filastrocca. Andiamo. La filastrocca del pene. Non vorrei crear scalpore, parlarne con tanto ardore, ma il mio cuore vuole ricordare di un organo che fa creare. Se lo guardi con sospetto, gli devi portare rispetto, senza trucco e senza inganno. Ti fa divertire tutto l'anno. Nella vita la sua gloria è decantata nella storia. Della sua potente forza lui è fiero quando si sforza. Anche quando è sudato non demorde nel suo operato. Il suo compito è molto serio. Della donna ne è il desiderio. Lei sempre senza fretta, ansiosa e lì che aspetta, come una farfalla senza ali. Gioisce mentre sali, andando su e giù, non si vuole fermare più, uscendo tutto tremante, la donna lo cura come una badante. Finito il suo lavoro, a volte è meglio anche dell'oro, finire questo dì andando a fare tanta pipì. Ok, come non hai sentito nulla? No, non ho sentito nulla. Questo è un problema. Giulia dalla regia. No, perché lei è nel telefono. Lo stiamo dicendo in diretta comunque a tutti quanti esatto. Coloro che ci stanno ascoltando. Sì, perché Tecla è nel telefono. Okay. La sua voce esce da lì. E quindi avendo noi le auricolari, non mandandola in diffusione con le casse, lei non ha potuto sentirla attraverso il telefono. Sì, adesso. Comunque si è sentita. Sì, nella radio si è sentita, tranquilla. Okay, perfetto. Mi dicono ascoltatori che si è sentita. Sì, sì, molto bene anche, avevi ragione, l'aspetto tecnico della nitidezza. Questo è il bello della diretta, facciamo le prove, facciamo noi, facciamo le prove in diretta. Beh, comunque, non lo so, era simpatica, è l'unica cosa che ho trovato poeticamente per allietarvi un po'. Ma infatti... No, scusami, vai. Dimmi. Vai. No, no, dimmi tu, no, io ho fatto, vai. No, no, è che, cioè sì, come dicevi tu, è curioso che, non, che si, ci sia poco materiale in circolazione. Cioè, riguardo a questo, comunque in generale, appunto abbiamo avuto anche un po' di difficoltà a trovare un contributo artistico che fosse di parte maschile, sul maschile, declinato in modi diversi. Insomma, abbiamo fatto molta fatica e quindi niente, cioè, anche questo dà da pensare. Esatto. L'altra volta avevo letto 10 risposte alla frase comportati da uomo, che ricordo agli ascoltatori, di Kyle Guante, e poi ho trovato questa cosa qui. Non ho trovato nient'altro, quindi esatto, da pensare. Bene ragazzi, io direi di lasciare spazio al prossimo intervento, a questo che vorrei un po' spoilerare, questo papà. Sono molto curiosa. Grazie Tecla. Grazie a voi ragazze. Allora alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Beh, direi che possiamo ascoltare un'ultima canzone prima di procedere. E ok, quale vuoi? Ok, allora ascolteremo Six to Nines. Cosa, com'è? Va bene? Di Big Wild. You're Bentornate e bentornati. Siamo su Radio ZM, sono le 20:26, programma Le Ribelli, sulla mascolinità tossica. Una puntatona. Forse, vediamo. Una puntatona. Leggerina. E volevamo chiudere, appunto, visto che abbiamo dato parola agli uomini, hanno parlato gli uomini sulla mascolinità tossica, che è fondamentale proprio per dare un po' di spazio a questo confronto, volevamo chiudere facendo alcune domande ad un papà. Ad un papà, nel nostro caso sappiamo è un compagno, papà quattro volte, educatore professionale, e chiedergli un pochettino appunto questa, sì, la mascolinità tossica, magari vista anche dal punto di vista di un papà, come prova ad eliminare determinate stereotipi, atteggiamenti con i suoi figli già da piccolini. E, vabbè, poi magari ci ricollegheremo al discorso fatto da Gasparrini, che appunto ha buttato lì qualche input, secondo me interessante, da andare a punzecchiare un po' a questo papà. Vediamo cosa ti dice, e il suo nome è Meme. Attenzione, è un papà e non un mammo, eh? No, no, assolutamente sì. Si chiamano così. Suona? Sì. Suona. Nessuno ha respirato per diversi secondi. Pronto? Ciao Meme, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Ciao. Come stai? Bene, bene. Benvenuto su Radio ZM, al programma Le Ribelli. E grazie. Grazie a te anche per aver partecipato a questa piccola intervista. Volevamo entrare nello specifico della vita di un papà e farti qualche domanda proprio per stimolare un po' la riflessione, il confronto anche per tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie a voi di avermi invitato. E, guarda, se vuoi, vabbè, faccio un annuncio, è mio cognato. E, io non so se tu hai avuto l'occasione di sentire gli interventi precedenti, perché so che è orario di cena, tu hai quattro figli e quindi non è proprio un orario felicissimo per voi, e anche per stare ad ascoltarci, anche perché iniziano a essere grandicelli, quindi non è facile. Ma... No, infatti no. Non so niente, non ho ascoltato niente. Allora ti dico, ti butto là io già qualche input sotto forma di domanda, perché appunto è intervenuto questo filosofo e femminista Lorenzo Gasparrini, ci ha parlato appunto di mascolinità tossica, che cos'è, quali atteggiamenti, e ha parlato anche, lui ha parlato della figura del mammo, che è comunque un linguaggio che nasconde anche un contenuto un po' sessista, proprio perché il papà è papà e si può prendere cura dei suoi figli a prescindere dal fatto che debba assumere degli atteggiamenti da mamma, perché la mamma è mamma e il papà è papà. Sì, questa cosa, lo diciamo anche a chi ci sente, l'abbiamo trovata proprio sul giornale, cioè Gasparrini non l'ha detto, ma... noi, anche lui evidentemente, ci siamo resi conto che anche i giornali e i canali mainstream utilizzano questa parola. Addirittura Conte, qualche mese fa, su un giornale è uscito con questa definizione. Scusa, ti sento lontanissima, la seconda voce la sento lontanissima. Così è meglio? No. Ah no, sai perché? È sempre perché il telefono, ok. No, dicevo che anche Conte è uscito sul giornale dicendo proprio mammo, e questo termine è evidentemente stato riutilizzato da più giornali e da più persone. Quindi che domanda vogliamo fargli, Giulia? Non vi sento più. Come non ci senti più? Ci senti? Ora ci senti? No, ti sento, adesso ti sento a te, Giulia, un po' di più lontana però. Sì, sì, rispetto all'inizio che sentivo benissimo. È perché tutto dipende da dove mettiamo il telefono, che funziona comunque da microfono, a prescindere dai nostri microfoni, la radio e tutte le cose, il telefono continua a funzionare da microfono. Io volevo un po' capire, chiederti, così vi sento. Volevo chiederti, Meme, un pochettino tu come ti relazioni con questi stereotipi. Ad esempio, tu che sei papà quattro volte e che lavori, fai l'educatore professionale, se ti rivolgono un'affermazione del genere, non so se ti è mai capitato, o comunque anche essendo tu attivista politico, mi chiedo come reagisci e come cosa pensi, come te la senti un po' addosso questo stereotipo, al contrario, tra l'altro. Questa rappresentazione di genere. Sì, no, non me lo sento addosso, e se me lo mettono non mi piace. Se penso a quando sono diventato papà la prima volta, il primo istinto è stato molto maschile, nel senso che è stato un po' quello di lavorare di più. Cioè, prima, come dire, eravamo una coppia che conviveva e non c'era la necessità assoluta di avere uno stipendio e quindi il cibo da portare a casa, ma invece coi figli sì, cioè che è una roba abbastanza tipica dei padri soprattutto, e che è un po' quell'istinto lì, primordiale del cacciatore forse, non lo so, no? Che va a caccia e porta a casa il cibo. Per cui, come dire, dopodiché io in casa cerco sempre di aiutare mia moglie, però non è ho sempre cercato di esserci con tutti e quattro i bambini, soprattutto anche quando erano molto piccoli, che invece è una cosa che magari il maschio padre di anni fa, ma anche mio padre volendo, c'è stato meno con noi, il cambio dei pannolini, tutta una serie di cose che forse sì, adesso il mammo li fa e invece una volta il padre non lo faceva. Però oltre a questo non credo che sia una definizione che abbia senso o che sia particolarmente libera di mascolinità o insomma. Sì. No, ma infatti anche l'altro giorno qua noi non mi ricordo come è venuto fuori mentre si parlava tra di noi, non in radio, e faceva un po' sorridere tutti come alla fine un papà sembra, cioè lì già la società ti impone una sorta di quotidianità e schema, e poi per giunta se tu riesci ad riappropriarti di alcune tue non mi piace dire mansioni, ma attenzioni e cure nei confronti dei tuoi figli, addirittura ti toglie la legittimità perché ti chiama mammo, non sei più papà. E quindi cioè, ci faceva molto sorridere in maniera anche un po' triste, perché almeno i papà già non gli danno la paternità abbastanza, e almeno lasciateli il nome di papà perché saranno dei papà, almeno questo. E quindi ci faceva molto sorridere e ci interessava chiedere a chi magari se l'è anche un po' sentita addosso questa cosa. No, noi posso dirlo, noi ci siamo scambiate un'occhiata, non prenderti male, ti prego, quando hai detto che aiuti tua moglie in casa, perché io sono convinta che tu non aiuti tua moglie, ma fai semplicemente delle cose in casa che c'è bisogno di fare, tanto quanto lei, magari. Ma è un linguaggio, cioè un modo di dire che effettivamente ormai ci ha completamente coinvolti, no? Cioè, lo diciamo tutti, cioè, anche l'altro giorno io e le mie compagne qui presenti stavamo parlando proprio di questo modo di parlare, e a me è capitato che mi chiedessero: ma lui ti aiuta? Ma in che senso? Cioè, come hai detto tu, secondo me molti uomini utilizzano questo modo di dire perché ormai è così, cioè fa parte del nostro linguaggio, no? Le mansioni comunque sono... ci si aspetta che le faccia la donna, ma adesso i maschi aiutano, ma in realtà non aiutano, certo. Semplicemente facciamo le stesse cose. Sì, se posso contestualizzare, non ci siamo detti, come dire, che ruoli abbiamo io e Sara, che è mia moglie. Certo. Nel senso, se fossimo entrambi lavoratori, come la maggioranza delle famiglie ha ormai padre e madre lavoratori con figli, ti darei ragione, vi do comunque ragione, il linguaggio è comunque quello lì. Però, come dire, noi abbiamo due ruoli, io lavoro e porto a casa per certi versi lo stipendio e quindi i soldi per cui noi possiamo sopravvivere, e Sara si occupa dei bambini e della casa, e quindi certo che io l'aiuto, cioè non potrei io gestire tutto perché non ne avrei il tempo. Lei, gestendo i bambini, gestisce anche i classici lavori da casa, questo sì. Quindi, come dire, cioè, in questo caso l'aiuto secondo me è calzante. Dopo sì, capisco il discorso del linguaggio, sì, però certo. No, ed è una scelta consapevole la nostra, cioè non è che. Esatto. Come dire, potremmo portare i bambini, avremmo potuto portare i bambini al nido e all'asilo, ne avremmo tutto diritto, non so se ne avremmo le risorse, però le troveremmo, ma invece per scelta non lo facciamo. No, hai fatto bene a contestualizzare, ed è molto bello in realtà il fatto che sia stata una scelta condivisa, perché esprime una grande libertà. Te lo volevo dire soltanto perché chiaramente, non essendo qui con noi, poi in radio ci si sente e basta, la nostra occhiata c'è stata, e quindi volevo renderti partecipe anche a te di quello che succede qua. Io avrei una domanda invece per quanto riguarda un po' l'educazione. Sì. Cioè come si affronta, cioè come affronti tu le tematiche di genere con i tuoi figli? Io non so che età abbiano. Hanno dai 2 agli 11 anni. Ok, quindi... maschio di 11 e un altro maschio di 2, e poi 2 femmine di 9 e 7, okay. Quasi 8. Se si affrontano, allora, chiaramente, cioè in che modo? No, allora, in modo esplicito poco, perché sì, forse con quello di 11 si può cominciare a parlare in modo esplicito di cose del genere, altrimenti è anche abbastanza inutile, penso, con bambini più piccoli, mentre invece penso che lo affrontiamo sia io che Sara attraverso l'esempio, sia compiamo noi di quello che facciamo, sia del come trattarlo allo stesso modo, o meglio in modo diverso, ma perché hanno età diverse, e invece allo stesso modo, perché sono maschi e femmine. Ma non, guarda, abbiamo appena finito la discussione con Anita, che ha 9 anni, che non vuole lavare i piatti, e che dice che suo fratello ha iniziato a lavarli più tardi di lei, a 10 e non a 9. Invece secondo noi devono lavarli tutti e 2. Dopodiché Martino le lava un po' più di volte a settimana, perché ha 11 anni e lei ne ha 9, quindi la differenza la fa l'età, non il sesso, certo. Non il genere. Bellissimo questo racconto. rende molto l'idea anche poi delle dinamiche tra bambini. Io appunto, Anita, Martino, Linda e Michelangelo sono i miei nipoti, e avrei tante storie poi su Anita in particolare, perché è uno spirito un po' libero per i suoi 9 anni, e anche lei sulle tematiche di genere ha già dato qualche exploit abbastanza divertente, però cioè, credo che sia bello anche proprio quello che hai detto del fatto dell'esempio, magari non usare troppe parole, perché i bambini... è giusto che siano anche bambini troppo intellettualizzati fin da piccoli, magari appunto sono tante parole messe lì che per loro hanno poco significato, e invece vedere l'esempio di una madre e un padre che collaborano, decidono insieme e cooperano e si dividono tutta una serie di attenzioni, cure, mansioni, secondo me è già una pratica antisessista non indifferente. Sì, mi viene in mente un'altra cosa sull'esempio, sull'uso dei colori, un po' anche dei giochi, però i colori sicuramente è una cosa lampante, che se cioè che la differenziazione fra azzurro e rosa è proprio uno stereotipo, una cosa che viene data e non è naturale, perché nel momento in cui lo vedo, soprattutto con i più piccoli nostri, che Michelangelo, 2 anni, ha un sacco di scarpe rosa, di indumenti rosa, perché li eredita da sorelle e cugina, e non si fa nessun problema a metterlo, perché lui non riconosce che il rosa è femminile e l'azzurro è maschile, e perché i fratelli nemmeno. Quindi non c'è intorno a lui un giudizio o un commento continuo del «ah, ma guarda che hai le scarpe rosa, ma guarda che sembra una femmina», come anche il capello lungo che ha lui o che ha avuto anche Martino quando era più piccolo, non ha mai influito. Certo, magari invece a Martino adesso mettere un elemento rosa a 11 anni nel contesto scolastico dei suoi pari, allora certo che è più complesso e non si veste di rosa. Perché magari il giudizio è più forte e lo sentirebbe anche in un modo più aggressivo magari sulla sua pelle. Non so. Non ti sento. No, dico, magari Scusa. Il giudizio poi diventa anche più forte, più aggressivo quando si cresce, no? Certo. Le dinamiche a scuola, il gruppo. Sì, ma poi è fuori dal contesto familiare, quindi esatto. È più facile che ci sia qualcuno che quel giudizio ce l'ha, ma perché ce l'ha da sempre, quindi lo tira fuori. Beh, direi che già come spunti, anche per chi magari ci sta ascoltando e ha dei bimbi piccoli, non sono poco. So che ci sono delle mamme amiche che ascoltano, che mi scrivono poi, fanno i commenti e sono sempre molto contente ed entusiaste. E avere anche qualche spunto in più, proprio anche da applicare nella propria vita, male non fa assolutamente. Proprio... E poi vabbè, tu me lo sai, però io sono super per il confronto, anche già da piccoli, ma più per un'abitudine, come diceva anche Gasparrini prima nel suo audio, proprio magari nel mondo maschile siamo meno abituati ad educare i bambini già da piccoli più al confronto, che non significa appunto intellettualizzare, ma proprio a tirar fuori le proprie emozioni. E io vabbè, con voi ne parlo e... stimolo anche i miei nipoti a volte su questo, però io credo fermamente che sia una cosa anche bella e importante riuscire a esprimere le proprie emozioni e sensazioni e imparare a farlo. Certo. già da piccolini, insomma. Sì, guarda, forse allo stesso modo, non so, io sono più... ho sempre in mente, come educatore in questo caso, di educare all'accoglienza. Esatto. e quindi all'inclusività, e penso che anche nella questione di genere ci sia poi questo, cioè il rispetto dell'altro, che è importante a scuola, è importante in famiglia, è importante nelle relazioni di genere, è importante poi quando diventano grandi nel mondo. Eh sì. Riuscire ad accogliere con rispetto non è una cosa così facile, soprattutto in questo periodo. No, va bene. No, io avrei altre mille domande, però non possiamo, cioè non posso farle tutte chiaramente. Se posso farti una domanda magari molto molto complessa in realtà, ne approfitto. Noi prima abbiamo parlato un po' di questa gabbia, anche Lorenzo Gasparrini, che ci ha mandato un audio, che è un filosofo femminista che è intervenuto prima, ci ha parlato di questa gabbia in cui comunque la maschilità, l'essere uomo è dentro e cerca a volte di liberarsi, altre volte non riconosce questa gabbia ma ci sta dentro, assumendo una posizione di potere fittizio. E non so, mi chiedevo, tu in quanto uomo, se ti sei mai sentito non libero di, non so, esprimere certe cose, fare certe cose, essere in un certo modo, perché non saresti stato giudicato magari anche da te stesso appartenente al tuo sesso biologico, no? Quindi non un, tra virgolette, vero uomo. Vabbè, questa è difficile, di domanda. So, però abbi pazienza. Mi viene in mente una cosa banale, se sì. Vai, posso alleggerire la domanda, ed è la gabbia dell'uomo che sa fare i lavori manuali, mm-hmm. Per forza, no? Cioè, se non li sai fare, non sei un uomo. Quindi se c'è da cambiare una lampadina, la devo cambiare io. Se c'è da e questo sia in famiglia che all'esterno, nelle varie associazioni o collettivi in cui poi ho militato e lavorato, o anche nella mia cooperativa dove lavoro. Al maschio deve fare questo e quest'altro. Io in realtà sono uno che di manualità ne ha poca, magari per pigrizia, magari per attitudine, e quindi lì sì, mi sono sentito spesso un po' in obbligo di invece di fingere che no, beh, ce la faccio, lo faccio io, però in realtà no, cioè non è una roba che è mia, quando invece ho colleghe bravissime a riparare motori o a trapanare muri. Hai capito? Beh, no, se, no, non è per niente banale in realtà, perché siamo tutte un po' ingabbiate, anche noi che diamo sempre per scontato che lo faccia un uomo una roba del genere, e quindi non impariamo a farle queste cose, quindi non è per niente banale, anzi forse una delle prime che in cui ci chiudiamo dentro da soli. Va bene, direi che ti ringraziamo di cuore e salutaci tutti i tuoi figli e le tue figlie. Va bene, grazie mille. A voi. Grazie Meme. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Che dire, fanciulle? Beh, oggi abbiamo sentito vari interventi, secondo me molto interessanti, spunti di riflessione. Secondo me è una puntata delicata, anche perché insomma è fatta da delle donne, e quindi è sempre difficile poi parlare, secondo me, un po' del maschile. Cioè io vorrei andarci un po' coi piedi di piombo. O comunque a un tipo di maschilità sostenibile, no? Libera, certo, femminista. Si punta ecco, a quello. Questa puntata era dedicata e voleva parlare a questo tipo di maschilità. Chiaramente non è una grande giustificazione alla violenza di genere, alla violenza contro le donne, ma è, come diceva Gasparrini, capire che cosa c'è sotto la punta dell'iceberg, quindi la maschilità tossica è presente costantemente ed è una cosa di cui dobbiamo liberarci. E chiaramente per liberarcene bisogna essere consapevoli e riconoscere anche tutta questa serie di dinamiche che appunto durante il corso della puntata siamo riusciti a mettere in luce, e direi che sicuramente c'è una... Non so come dire, cioè per rendersene conto, cioè chi deve rendersene conto sono uomini sicuramente, ma poi come abbiamo anche già detto anche le donne e tutte quelle persone che comunque reiterano queste dinamiche violente. E di non privilegio in realtà. Esatto. Probabilmente. Cioè. Sì. Beh, io penso che mi riascolterò mille volte il podcast di questa serata, non so voi. Io ho deciso di mandare l'audio di Lorenzo Gasparrini all'interno della musica della nostra radio, così ogni tot verrà ripreso e rimandato nell'etere. A loop? Sì. Nell'inconscio, esatto. Lo imparerà per bene. Sì, qualcuno lo imparerà a memoria. Speriamo. Se capterà anche il significato. Bah! No, sì, dai, io sono positivissima proprio per il futuro, ma... Bisogna essere radioso di rivoluzione. Dobbiamo distruggere il patriarcato, abbiamo un grande impegno. Tutte e tutti insieme. Entro dicembre 2020. Allora, direi che prima di passare ai saluti ascoltiamo un'altra canzone. E Giulia, quale hai preparato? English Black Boys. Yeah. This is English. The right pronunciation. Pronunciation. Difference is that we're an English breed. Reggae music, non ce l'aspettavamo, grazie le DJ. No, infatti è stato un po' un rilassarsi. Sì, ci voleva dopo questa puntata super piena di contenuti. Quindi adesso siamo arrivati. E anche contenuti. Esatto, e contenuti, l'ho già detto. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Intanto ringraziamo la nostra fantastica e meravigliosa Lady J, che ci propone sempre delle playlist e delle musiche strepitose. E Matteo delle Indecorose, l'indecorosa Matteo da Torino. Esatto. Lorenzo Gasparrini, che purtroppo appunto non è riuscito a essere in diretta, ma comunque Ci riproveremo. Ringraziamo Tecla, che ogni volta ci delizia con l'arte e la poesia. Non si è sentita l'air quando ho detto arte. va bene così. E Meme, il papà di cui abbiamo appena sentito il contributo. Grazie a Mercu per la regia, fantastica. Grazie mille, grazie Marti. E Gioia. Gioia. Potete sentire questa puntata tra qualche giorno, quando la caricheremo, su Archive. Archive. E anche sui nostri canali. che sono e guardano me. Vai, Marco. Allora, adesso ultimamente, cioè, probabilmente grazie alla quarantena, c'è cioè, sempre il lato positivo, siamo riusciti a mettere mano al sito di ZAM, e che è stato riempito di contenuti, anche quello. E quindi, se voi andate sul sito di ZAM, www.zam-milano.it, trovate tutti i programmi che vanno in onda nella nostra radio, e se cliccate sulle immagini del programma, vi rimanda tutti i podcast. Quindi è facilissimo. Il sito internet del collettivo ZAM. Poi, se volete anche unirvi al nostro canale Telegram, basta cercarci. Unitevi. Sì, Radio ZAM. C'è un trattino, forse, no? Quello è il trattino, c'è per il, no, per la chat. Alto. Ah, il trattino alto, sì, probabile. Trattino alto, trattino vabbè, provatele medio. Tutte. Noi studieremo queste cose. E dobbiamo farci il digino. Facebook, Instagram, Radio Milano Sud. Credo che sia tutto. Bene, quindi se volete riascoltare questa puntata o altre puntate delle Ribelli e in generale di Radio ZM, sapete dove trovarci. Noi ci risentiamo invece in diretta giovedì prossimo dalle 6:30 alle 8:30 con un altro programma. E da qui è tutto, vi salutiamo, grazie per averci ascoltato. Annuncio la canzone, ascolteremo Macho Man dei Village People. Cantatela tutti, ballatela tutti e tutte. Body, body, wanna feel, wanna feel my body, baby. Such a thrill, such a thrill, my body, yeah, yeah. Wanna touch my body, baby. It's too much, not too much, my body, yeah, yeah. Check it out, check it out, my body, baby. Don't you talk about my body, yeah, yeah. Talking about my body, well, turn it out, listen to my body. Body, body, body, body, wanna feel my body, wanna feel. solo.